Mercoledì 22 febbraio alle ore 21 il teatro del Dams Lab ospiterà Vox in Bestia, un prontuario dantesco di animali fantastici, e io sono qui per parlarne con Laura Catrani, voce e mente di questo spettacolo. Ciao Laura, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fugico. Grazie, buongiorno. Allora, dicevamo, questo mercoledì appunto sarai qui a Bologna con il tuo spettacolo. Da dove nasce questa idea e che cosa racconta poi lo spettacolo con un titolo così particolare? Dunque, l'idea nasce attorno all'anniversario dantesco del 2021 e 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. In quel periodo eravamo in piena pandemia, naturalmente noi artisti non avevamo modo di dare voce alla nostra arte. Io sono una cantante, in quel periodo mi stavo occupando di animali fantastici. C'è stata una specie di illuminazione dentro la mia testa. Ho pensato, perché non cercare un bestiario dentro la Divina Commedia e far sì che tutti questi animali muti possano, attraverso la mia voce, dire qualcosa. Non so bene che cosa, all'epoca non avevo ancora le idee bene chiare. Ma poi questa idea era talmente forte dentro di me, talmente impellente il desiderio di creare questo bestiario, che in poco tempo ho messo su un team di persone e abbiamo lavorato per realizzarlo. Dare voce agli animali della Divina Commedia significa, insieme a tre compositori, uno per Cantica, Fabrizio De Rossi Re per l'Inferno, Matteo Franceschini per il Purgatorio e Alessandro Solbiati per il Paradiso, scrivere della musica per voce sola attorno a questi animali scelti. Sono cinque per Cantica. La voce sola è la mia strada da tanto tempo, forse la mia specializzazione. Significa non cantare con accompagnamento strumentale, quindi sola sul palcoscenico, io e la mia voce. Poi attorno a questi 15 canti c'era bisogno di creare un legame importante fatto di parole, e ho chiesto a Tiziano Scarpa, lo scrittore, di scrivere appunto 15 testi che raccogliessero l'idea dantesca, le tarzine dantesche da cui noi abbiamo estrapolato questi animali, e le portasse nella vita contemporanea, quindi parlasse un po' ai nostri giorni. E ne sono usciti 15 testi bellissimi, devo dire, che appunto fanno parte della raccolta di questo Vox in Bestia. Poi nella versione, il progetto è debuttato nel 2021 su Radio 3 Rai in 15 puntate registrate con la mia voce. Io leggevo le terzine dantesche, un animale al giorno, la terzina dantesca, i testi di Tiziano Scarpa, e senza soluzione di continuità cantavo la musica composta per voce sola sull'animale preso in considerazione. E parliamo, per esempio, delle tre fiere, dell'agnello, dell'ape, di Cerbero, delle cagne nere, insomma gli animali che popolano, che certo, conosciamo perché li abbiamo studiati e li abbiamo letti nella Divina Commedia. E nella versione da concerto, che poi è nata subito dopo la versione radiofonica, porto con me 9 animali, non 15 perché sarebbero poi troppi e troppo lungo il concerto. E 9 animali, 3 per Cantica e poi insieme ai testi di Tiziano Scarpa e alle video animazioni di Gianluigi Toccafondo, il quale ha creato un bestiario visivo attorno al mio bestiario dantesco. E praticamente questa è la struttura del concerto che vedrete mercoledì sera. Perfetto, io Laura ti ringrazio innanzitutto per averci appunto raccontato questo spettacolo. Poi dicevi anche tu che nasce in veste radiofonica, no? Noi qua siamo appunto una radio, quindi ti volevo chiedere un po', anche se da un punto di vista tecnico ce l'hai detto, quali sono le differenze, diciamo, dallo spettacolo dal vivo e quello in podcast, ma dal tuo punto di vista invece personale, diciamo, quali sono gli aspetti che ti piacciono poi portare lo spettacolo sul palco, ecco? Beh, sul palco le cose nascono in quel momento. Il podcast è stato importantissimo perché ha messo alla prova lo spettacolo, la tenuta e soprattutto l'idea. L'idea funziona, ha funzionato e si regge benissimo in 15 puntate, ma poi andare in scena è proprio essere lì in quel momento, tirare fuori l'energia, tirare fuori le visioni, perché potete immaginare una cantante da sola sul palcoscenico per un'ora che fa tutto con la propria voce, molto interessante, molto anche per il pubblico molto interessante, perché i silenzi fanno parte dello spettacolo e sono anche necessari per creare una sorta di passaggio da un animale all'altro, perché è un bestiario, come è un catalogo di animali. Naturalmente le videoanimazioni, che non sono presenti in radio, creano uno successivo livello di lettura, un livello visivo piuttosto interessante. Perfetto, io ti ringrazio veramente, Laura, per averci raccontato tutto questo. Ricordiamo ancora una volta mercoledì 22 febbraio al Teatro del Dams Lab. Grazie ancora. Grazie, se posso aggiungere una piccolissima cosa. Certo. In questa versione di mercoledì sera verrà introdotto lo spettacolo da professore Fabio Massaccesi, che ci racconterà brevemente un po' di bestiari medievali. Mi sembrava bella questa accoppiata, introdurre Vox in Bestia con un po' di storia.